differente perché si era voluto concentrare un po' sulla questione dei rapporti specifici tra le chiese e la questione appunto nordirlandese. In realtà poi leggendo il volume nella sua ultimativa stesura e quindi nella pubblicazione mi sono reso conto di quanti intrecci e di quante possibilità di sviluppo ancora susciti appunto questa domanda di fondo che Valent si pone proprio un po' all'inizio del volume, ovvero sia quella di cercare di ricollocare all'interno della questione dei nodi diplomatici, dei rapporti diplomatici tra Regno Unito, Santa Sede e la stessa Repubblica d'Irlanda, la questione dei Troubles. E questo lo dico nel senso che è un aspetto che, ad esempio, io quando mi iniziai a interessare della questione ancora, diciamo, alla fine degli anni 90, in qualche modo percepì che era un aspetto da approfondire, andava sicuramente oltre un po' quello che era l'obiettivo mio, però mi resi conto che poteva essere un tema da sviluppare fecondamente. Per farlo, naturalmente, bisognava focalizzarsi, ma avere anche un taglio di sensibilità. Propriamente forse non tanto e solo più dei contemporaneisti strettamente intesi quali ai quali modestamente anch'io appartengo, insomma, mentre questa attenzione allo scavo anche per le fonti diplomatiche, per le fonti politologiche che Valen dimostra con grande anche padronanza e sensibilità di avere all'interno di questo volume, deriva proprio anche da un approccio diverso, direi di carattere metodologico. Lo vorrei dire subito anche per delimitare molto chiaramente i limiti del mio intervento e in qualche modo appunto non dire cose fuori tema o comunque che non mi competono. La mia lettura della questione nordirlandese appunto si è focalizzata su alcune parole chiave, chiese piuttosto che questione sociale, e la questione diplomatica è stata per me appunto tutta un arricchimento che io ho avuto dal libro di Valent di notizie e di informazioni decisamente nuove. Stando appunto nel limite dei 20 minuti che ci siamo prefissi, io ovviamente non posso fare una presentazione del volume in tutto il suo Lo sviluppo, leggo. lo leggeranno, forse è meglio anzi suscitare la curiosità dei lettori e mi concentrerai piuttosto su due o tre passaggi che dal mio punto di vista mi hanno positivamente provocato, ecco, mi hanno creato sicuramente tutta una serie di domande e dato anche, devo dire, alcune risposte interessanti. Innanzitutto, questa attenzione, lo dico subito così poi sgombriamo, come dire, la scena da ulteriori, come dire, sospensioni, questo rapporto appunto con la Santa Sede, vabbè, detto che con il Vaticano ci sono sempre problemi, come dire, a reperire fonti in ambito contemporaneistico, poi c'è qualcuno che è più o meno fortunato, qualcuno che a volte non è questo il caso ovviamente, però sfrutta anche male la fortuna in cui si imbatte, e in altri casi invece appunto bisogna appoggiarsi in qualche modo sull'output, per così dire, cioè sulla pubblicistica, su quel che è un po' come dire, l'elemento, come dire, divulgativo di quella posizione, che non è peraltro meno interessante, non è meno significativo, certamente in qualche modo ricompone più che altro un approccio, come dire, rispetto al clima, rispetto all'impatto che la posizione del Vaticano ha sulla comunità internazionale, sulla comunità italiana. Io ho notato anche un utilizzo da parte di Valent di alcuni, come dire, giornali opinion makers molto interessanti, come ad esempio le pubblicazioni di EDB, adesso mi viene in mente quella rivista, cos'è, il Regno? Ecco, dove si riproduce spesso un dibattito interno alla stessa opinione pubblica cattolica italiana, anche con riferimenti però all'opinione pubblica estera. E quindi sicuramente questo dà una traccia, dà in qualche modo una linea, restituisce una linea molto interessante di quella che è stato l'impatto delle posizioni della Santa Sede rispetto alla questione. E qui mi permetto di diffondermi come inizio, cioè prima metà della mia riflessione, proprio su questo aspetto, cioè quella che è stata un po' la posizione appunto delle chiese relativamente all'inizio dello scoppio della guerra civile, diciamo, in Irlanda del Nord. Ecco, da questo punto di vista, un arricchimento che io vedo molto chiaro è appunto la domanda sulla posizione diplomatica della Santa Sede, perché rispetto alle cose che io avevo visto appunto soprattutto alla Linenhall Library a Belfast, piuttosto che appunto all'Archbishop House a Dublino, mi sono reso conto che ancor più interessante può diventare appunto cercare di sondare quelle che sono state le relazioni ad intra tra gli ecclesiastici locali e gli ecclesiastici romani, quando spesso c'erano anche vie di contatto, perché mi viene in mente ad esempio tutto il discorso della Irish College di Roma, dove molti prelati presuli appunto che poi avrebbero avuto degli incarichi importanti in ambito appunto della gerarchia ecclesiastica irlandese, penso per esempio a Daly, piuttosto Edward Daly, naturalmente non Carl Daly, penso che questo qui sia una linea di contatto molto interessante da approfondire. Dopodiché diciamo che l'altro aspetto che mi pare molto interessante, che Valent ha approfondito doverosamente, è la posizione di un Papa che io invece, dati i miei, come dire, margini diversi di ricerca, perché io in sostanza parto da dove lui finisce, non ho approfondito, che è la figura di Paolo VI e la posizione di Paolo VI rispetto appunto a quella che è stata un po' l'apertura durante la stagione appunto delle rivendicazioni dei diritti civili, appunto l'apertura di tutta la questione irlandese, nordirlandese, ecco. E quindi la posizione di Paolo VI viene documentata molto bene, certamente anche qui c'è sempre questo limite un po' delle fonti, perché purtroppo lì noi sappiamo che l'archivio Paolo VI per adesso è molto molto parco nel concedere la consultazione dei documenti di Montini, tanto è vero che si lavora molto bene qui all'archivio arcidiocesano di Milano per quanto riguarda il vescovo Montini di Milano, ma appena Montini diventa Papa, ic sunt leones, e non sappiamo appunto esattamente che cosa sia successo. Ma la posizione di Montini invece è peraltro molto interessante per capire quello che è stato l'orientamento del Vaticano quando tra Londonderry e Belfast cominciava a deflagrare il conflitto civile. Ecco, rispetto a queste considerazioni volevo sottolineare due o tre aspetti appunto del lavoro di Valent che mi trovano perfettamente concordante, in particolare il rilievo che lui fa riguardante appunto l'impatto e il ruolo del Concilio Vaticano II sulla questione appunto del conflitto, che fu un apporto assolutamente minimo e che mostra come l'attenzione sociale dell'episcopato irlandese e in particolare oggi è veramente bassa, e sicuramente questo, se non ha provocato, però ha agevolato in qualche modo una certa miopia mostrata dalla gerarchia ecclesiastica irlandese nel fronteggiare soprattutto agli inizi il conflitto. Dicevamo prima appunto anche col professor Pellizzi anche questo discorso dell'ecumenismo che nasce in quegli anni e che viene un po' sbandierato come la possibilità di trovare una soluzione al conflitto indagando o comunque lavorando per un accordo teologico, si mostrerà quasi subito come un po' uno specchietto della allodole, anche perché il problema non era primariamente un problema teologico e lo era religioso solamente per alcuni atteggiamenti di carattere settario o di carattere strumentale, essendo primariamente, come ormai è stato chiarito nel dibattito, un problema politico. E questo Valen lo mette molto bene in luce. Quindi per chiudere rapidamente sulla questione della riflessione, diciamo, relativamente all'impatto ecclesiale o comunque alla posizione delle chiese sulla questione, ho notato anche questo attenzione che Vale mostra per il concetto di libertà religiosa. Anche questo è un aspetto che a mio avviso è stato opportunamente toccato e andrà ancora approfondito, ovvero sia il fatto che dal concilio esce un certo modello di libertà religiosa che nell'anno non viene assolutamente percepito, cioè proprio come se non fosse. E, è pur vero che c'è qualche singolo prelato, penso al cardinale Thomas Offi, che qualcosa fa nel tentativo di capire le ragioni, soprattutto durante le hunger strike, degli scioperi, visita anche il carcere di Meis, fa delle cose, insomma. Però alla fine dei conti è chiaro che la domanda iniziale del volume di Lucio, e cioè più che la domanda, l'affermazione, la violenza non è una soluzione, nei primi anni da parte dell'Episcopato irlandese viene risolta semplicemente se siete violenti siete cattivi, e non perché siete violenti, dov'è l'origine del vostro disagio, questo non esce, e non esce per niente proprio, ecco, questo è un problema sicuramente molto significativo. Per chiudere questa prima parte, poi mi dedico molto rapidamente alla seconda, e devo dire che appunto le domande che escono da questo punto di vista dal testo di Valent sono molto interessanti, e cioè me ne venivano alcune in particolare, proprio perché vorrei che questo intervento suscitasse più il dibattito che stabilire, come dire, degli atteggiamenti normativi che assolutamente non avrebbero alcun senso, ovvero sia per esempio il collegamento tra la gerarchia ecclesiastica irlandese, nordirlandese, e il clero locale. Quando c'è, io ho anche avuto un certo così sentore di questo facendo un po' di interviste, c'è un'impressione di grande scollamento tra le dirigenze ecclesiastiche e poi una parte del clero, ma soprattutto, dicevamo anche con Pellizzi, soprattutto i religiosi che qualcosa tentano di fare, sono, come dire, con le mani in pasta, sono in mezzo alla gente. I religiosi di Clonard, del monastero di Clonard, i Redemptorist Fathers, sono con il loro convento in mezzo alla Peace Lane tra Shankill e Falls, per cui hanno i protestanti da una parte e i cattolici dall'altra, i più arrabbiati, quelli delle classi popolari che più soffrono, ecco. Quindi forse lì qualcosa, capire come questi vescovi si sono relazionati al proprio clero, ai propri religiosi, lì è ancora sicuramente un terreno, a mio avviso, fecondo su cui insistere per ricavare delle informazioni. Ma soprattutto, questo è un contributo da questo punto di vista importantissimo che il volume di Valent dà, è proprio la posizione diplomatica della Santa Sede, in una fase in cui evidentemente esistono delle triangolazioni che emergono già dal volume e che si potranno, a mio avviso, ancora approfondire, proprio tra Londra, Dublino e Roma. L'imbarazzo del governo di Downing Street su tutta la questione nordirlandese dal punto di vista della sua esposizione internazionale è evidente, è continuo. Basti pensare a quando poi sarà Fidel Castro a denunciare la questione, mettendo in grandissimo imbarazzo appunto anche le autorità diplomatiche britanniche. Cioè Londra cerca sempre di coprire, ecco, e dall'altra parte di lavorare sotto bosco, offline, come si suol dire. E questo lo fa, Valen mostra molto bene anche questo sforzo che viene fatto appunto per cercare di coinvolgere il Vaticano in un'opera di mediazione, in un'opera di intervento sulle gerarchie ecclesiastiche locali, per poi arrivare alla fine ad un controllo persino delle frange paramilitari, penso ai provost e agli altri, ecco. Dall'altra parte c'è il ruolo, finché esiste, e però il volume insiste su questa fase, ancora del governo di Stormont. Io per esempio il governo di Stormont nelle mie ricerche non l'ho praticamente toccato, perché parto da pochissimo, c'era la direct rule ed era finita lì. Però c'era come governo ombra, o meglio come punto di domanda, deve esistere o non deve esistere una devolution? Una sorta di comitato di pietra. Esatto, e che tra l'altro ha condizionato moltissimo tutta la situazione. E su questo ancora due piccoli cenni, appunto uno che prendo al volo è quello del ruolo di Ian Paisley, perché chiaramente questa Free Presbyterian Church, che è più che una come dire, chiesa denominazionale, è evidentemente un gruppo di potere politico che opera proprio anche a livello di condizionamento della classe dirigente protestante, penso ai suoi legami con l'Orange Order, potremmo andare avanti, insomma. Ma appunto intendo dire, questo governo dell'Irlanda del Nord, e penso qui quando tu documenti in modo ricco, a mio avviso anche molto interessante, il ruolo di O'Neill prima e poi anche successivamente nell'ultima fase prima della Bloody Sunday, quel che succede, ecco. Mi sembra molto interessante anche in questo caso come dire, individuarlo come soggetto di indagine, perché anche lì bisognerebbe capire poi come il governo locale si è mosso rispetto alla posizione della Chiesa, e questa a mio avviso è una cosa come dire, che non dico chiarirebbe la situazione in generale, ma darebbe qualche linea per spiegare come mai ultimamente molti attori ecclesiali hanno mostrato parlo di attori della Chiesa Cattolica Romana, chiaramente, hanno mostrato una totale freddezza e rigidezza rispetto appunto al movimento repubblicano. Passo velocemente alla seconda insomma, parte di considerazioni, molto, molto contenuta anche questa, che riguarda invece appunto la parte più propriamente politico-diplomatica. Ecco, naturalmente su questo devo dire subito onestamente che Valen sa molto più di me, però a me ha provocato per tutta una serie di domande relativamente a questi anni che sono così importanti per descrivere l'origine del conflitto. Io qui sotto mano ho anche un volume uscito poco tempo fa. Naturalmente quando si parla della questione irlandese / questione nordirlandese / conflitto anglo-irlandese / troubles, tanti nomi per dire alla fine di un problema politico che riguarda le relazioni tra due isole che si affacciano su una piccola lingua di acqua, che è appunto il canale d'Irlanda. Ecco. Tra l'altro mi colpisce questo fatto che tante cartine, quando ero a Belfast, diciamo della comunità, anche istituzionali, ma della comunità unionista, rappresentino l'Irlanda del Nord e la Gania e non facciano vedere il resto dell'Irlanda, no? È un tentativo quasi di cambiare la geografia fisica, non so come dire, ecco. E però rende l'idea di quella che è la forza di questo conflitto, la sua devastante appunto pervadenza all'interno proprio della cultura di questi due gruppi comunitari. Ecco. Ma insomma, tornando appunto alle considerazioni di Valen, innanzitutto mi sia permesso di abbracciare e condividere fino in fondo la sua lettura relativa appunto al concetto di guerra civile in Irlanda del Nord. Ecco, questa è una cosa che fino a un po' di anni fa, mentre Pellizzi l'ha sempre messo molto bene in luce, altri lettori non facevano altrettanto e non sembrava non volessero arrivare a dire guardate che è una guerra civile, cioè è un problema di popolo proprio, ecco, all'interno di uno Stato. Legittimato o meno, appunto. Ma soprattutto dal punto di vista della consultazione che Valent ha fatto degli archivi del Foreign Office, la cosa che così mi ha colpito di più è appunto questo discorso, diciamo in generale, dell'impegno diplomatico che Londra in quegli anni cerca di svolgere per agire indirettamente su Dublino, e invece quella che è la risposta di Dublino. Questo mi ha colpito molto, perché quello che io invece ho percepito dalle interviste che ho fatto su Belfast e comunque in generale in Irlanda del Nord negli anni scorsi era questa idea di fondo di tradimento, cioè come dire, la comunità repubblicana si è sentita, soprattutto a partire dai primi anni dopo la partizione Dopo la partizione, ma anche soprattutto negli anni del 68, quando c'è la Northern Ireland Civil Rights Association, così, cioè gli anni in cui si cerca di dialogare anche pacificamente per rivendicare, come dire, questo status di second class citizenship come una limitazione ingiusta nel quadro e nell'economia di quello che alla fine è lo Stato britannico, ecco, formalmente. Ecco, e ne emergono dei lati nuovi, voglio dire, in questo lavorio che Londra fa per convincere Dublino a sua volta ad agire e interagire sulla comunità cattolica, tra virgolette, tra molte virgolette, nazionalista nordirlandese. Ecco, questo secondo me è un lavoro prezioso che ha fatto Valen e documenta molto chiaramente un po' uno stile diplomatico, voglio dire, cioè quello di Londra, che è uno stile alla fine, a mio avviso, dettato sempre dalla preoccupazione di massima di mantenere il più possibile sotto le ceneri un conflitto del quale primariamente non si vuole riconoscere la dignità di guerra civile. Torno ancora al punto iniziale. Del resto non è questione che per limiti temporali Valent ha affrontato, ma tutta la fase degli scioperi e le rivendicazioni della comunità repubblicana prigioniera di Marx, nei famosi H-blocks, e alla fine, come radicale domanda, è quella di dire: guardate che noi non siamo dei delinquenti, ma noi siamo dei combattenti di un esercito che difende un'idea di Stato, che è diversa da quella nella quale siamo oggi, per così dire, contenuti e addirittura definiti come appunto eversivi. Ecco, questo lavorio di Londra, secondo me, mostra un po' anche la doppia coda di paglia del governo di Westminster, cioè da una parte, e che ha mostrato anche negli anni a seguire, quindi io vi trovo una continuità nelle riflessioni nella ricognizione documentaria di Valent, ovvero sia, da una parte si dice che tutto questo problema è un problema che va ricondotto a, in qualche modo, un disagio interno al paese, e quindi è una malattia interna. Dall'altra parte però si comincia a produrre tutta una legislazione speciale, e questa viene analizzata molto a fondo da Valent, dall'internamento senza preventivo allo Special Power Act e andiamo avanti, cioè tutta una serie di provvedimenti fino ad arrivare, come diceva giustamente Pellizzi, alla Direct Rule, quindi alla sospensione del governo locale, tutta una serie di provvedimenti nei quali è evidente il fatto che Londra è alle strette e si trova nella condizione di dover applicare dei sistemi di emergenza, partendo dall'introduzione dell'esercito sul territorio e poi alla Bloody Sunday, tragicamente nota. E dall'altra parte però Londra stessa si sforza in tutti i modi di far vedere che non è così, che non è vero, che in fondo è un po' come, usando il paragone naturalmente per quel che può servire, è la questione meridionale nei primi anni dell'Unità d'Italia, brigantaggio. Ecco, pensiamo appunto a come proprio le mosse diplomatiche che vengono analizzate da Valen in fondo aiutano a leggere proprio questa impostazione psicologica del governo di Londra e forse dell'intera comunità britannica. Io, quando mi capita di andare per qualche convegno a, non so, adesso collaboro con Cambridge da qualche anno, e timidamente accenno al fatto che mi sono occupato della questione nordirlandese, prima cosa mi guardano i colleghi malissimo, perché è tabù, una cosa anche professore di modernista, e dopodiché, magari potendo approfondire con qualcuno di più la questione, mi rendo conto che effettivamente si è tentato di operare una sorta di rimozione, una sorta di rimozione proprio da parte di tutta la comunità del problema. E non è un caso forse che, come, e qui arrivo veramente all'ultima considerazione, non è un caso che la ampia letteratura che viene offerta nel volume da Valent, e che Valent ha assolutamente tutto assodato, controllato con grande attenzione e anche con grande fatica, perché è una documentazione molto vasta, voglio dire, attesta però di un fatto di fondo, che la stessa comunità scientifica, diciamo storica, sociologica, politologica dell'Irlanda, ma del Regno Unito in generale, fa molta fatica comunque a entrare in questo buco nero, in questo tema così, come dire, in qualche modo fastidioso, direi fastidioso. Per cui, concludendo, In un ambito certamente più ampio, perché è giusto non per essere per forza, come dire, per fare il bastian contrario assolutamente, ma per mettere quei necessari paletti che servono alla ricerca di tutti noi, in un ambito certamente ampio e più ampio, che è quello appunto della questione appunto dell'Irlanda, della questione irlandese, della questione nordirlandese, il testo di Valent si insinua come una ricerca molto curiosa, molto attenta e capace anche appunto di sviscerare alcuni aspetti, soprattutto di carattere diplomatico, davvero nuovi e interessanti. Non dico io per dire che quindi la sua ricerca è più limitata, eccetera, lui stesso, e qui mi permetto di dare anche una minima valutazione di ordine scientifico, che con molta correttezza, direi metodologica, delimita sin dall'introduzione quelli che sono i confini della sua ricerca. Io dicevo anche appunto agli studenti nostri del dottorato Federico Chabot a Bologna, noi diciamo sempre l'importante è darsi un quadro, un orizzonte di ricerca che sia ambizioso ma non troppo ambizioso, nel senso che poi si finisce per sforare, per cominciare a avanzare ipotesi che non trovano alcun suffragio nelle fonti e che si resta, insomma, alla fine si rischia di restare campati in aria con alcune tesi. Io devo dire che nella sua consapevolezza del limite, sia dal punto di vista delle fonti, è stato detto per esempio le fonti di ambito ecclesiastico barra ecclesiale sono limitate e più approfondite quelle sull'ambito diplomatico, ma soprattutto nella sua capacità di delineare un orizzonte di ricerca chiaro, originale e al tempo stesso compiuto, io credo sia uno dei maggiori meriti del volume di Valen, e per questo, sebbene come dire, tutti i lavori vadano poi nel corso degli anni incontro a revisioni, dibattiti e ulteriori sviluppi, io credo che questo volume resterà come un importante momento di riflessione e anche di chiarimento di alcuni aspetti davvero interessanti del conflitto nordirlandese. Grazie.